Anche se a volte non andiamo d'accordo, credo che tu sia una persona molto speciale. Anche se spesso mi fa incavolare, sono felicissimo quando riusciamo a passare un po' di tempo insieme. Anche se su tante cose la pensiamo diversamente, è bello vedere che su questo abbiamo esattamente la stessa opinione. Capita anche a voi di iniziare una frase positiva con un'espressione del tipo anche se? È come se volessimo bilanciare qualcosa di positivo con qualcosa di meno positivo. Un po' come dire, ok, fare un bel complimento, ma mica dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia, dimenticando tutte le cose che effettivamente non vanno. Un po' come se la mamma dicesse al proprio figlio che ha preso un bel voto. Anche se non hai preso 9, sono felice che tu abbia preso 8. E anche se a volte mi deludi, sappi che sono proprio fiero di te. Nella nostra parrocchia abbiamo da tanti anni questa bellissima abitudine. Al termine del campo estivo consegniamo ad ogni bambino una letterina personalizzata preparata dagli educatori, in cui cerchiamo di riassumere tutte le cose belle che abbiamo notato in ognuno di loro. Mentre scriveva una di queste lettere, Chiara, una delle nostre educatrici, mi ha detto: sai Don, è bellissimo scrivere queste letterine perché ci costringe a pensare soltanto agli aspetti positivi dei nostri bambini. Verissimo. Preparando queste letterine, più di una volta verrebbe istintivo cominciare con un anche se, continuando poi invece con il lato positivo che si vuole mettere in risalto. Sforzarsi invece di scrivere soltanto i lati positivi aiuta come a sviluppare una sorta di igiene mentale particolare, positiva. Mettere in luce soltanto gli aspetti positivi di una persona ci dà uno sguardo nuovo, uno sguardo diverso su di lei, che trasforma anche il nostro rapporto che abbiamo con quella persona. Come verrebbero allora le frasi che ho detto all'inizio del video, togliendo quel famigerato anche se? Credo che tu sia una persona davvero speciale. Sono felicissimo quando riusciamo a passare un po' di tempo insieme. È proprio bello vedere che su questo abbiamo esattamente la stessa opinione. Tra l'altro, avete notato che alla fine di queste frasi era come se ci fosse un bel punto esclamativo, che è più difficile invece mettere se si inizia una frase con un anche se, perché comunque rimane un po' quell'aria negativa, quell'aria grigia intorno anche a quel piccolo complimento che stiamo facendo. Ecco cosa ti propongo per oggi allora. Prova un po' ogni tanto ad eliminare dalla tua comunicazione quel braccino corto del anche se. Prova ad essere più generoso, meno avaro. E allora prova ogni tanto a lasciarti un po' andare, prova a comunicare soltanto qualcosa di positivo. E stai soltanto attento però a non esagerare, perché potrebbero accaderti delle cose veramente meravigliose. Sarai pronto ad accoglierle? Insomma, anche se dico un sacco di cavolate, ogni tanto qualcosa di buono in questi video lo dico o no?